tue mani, i tuoi pensieri strani, la bocca che mi tira su. Sento la tua energia, tutta quell'allegria, il fulmine che viene giù. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa fai? Dimmi, dimmi cosa sei. Amore, amore mio, la luce del mattino. Amore, amore mio, sei tu. E non c'è tuo respiro. Amore, amore mio, c'è un angolo di cielo blu. Sei tu la più bella, la più bella del mondo. Sei l'unica stella, di notte e di giorno. Qui vicino al mare, sotto questo sole, il resto non esiste più. Io vedo solo te, tu vedi solo me, e intorno a noi più niente c'è. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa fai? Dimmi, dimmi cosa sei. Sei tu la più bella, la più bella del mondo. Sei l'unica stella, di notte e di giorno. Amore, amore mio, la luce del mattino. Amore,